Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Sarete oggi con me e poi domani torna Sebastiano Barisoni. Il 349-238-6666, come sempre, il numero di SMS per i vostri messaggi, così come il numero anche per contattarci su WhatsApp. Di che cosa parleremo oggi? Bene, inizieremo parlando di un settore dell'economia italiana che ha testimoniato, stando almeno ai dati Istat che sono stati diffusi insieme all'andamento del PIL due giorni fa, testimonia un andamento tutto sommato positivo. È il settore dell'agricoltura, un più 3,8% del valore aggiunto, eppure è un settore che continua ad avere parecchi problemi. E i problemi sono ovviamente quello delle sanzioni nei confronti della Russia, che stanno creando problemi tanto al settore agricolo quanto al settore agroalimentare in genere, quindi anche all'industria alimentare, e poi soprattutto un problema di calo dei prezzi costante che sta andando avanti da mesi e sta mettendo in crisi intere filiere sostanzialmente, in particolare quella dell'ortofrutta, sulla quale in effetti il governo sta provando ad intervenire. Da cosa dipende questo? Dal fatto che ci sono una serie di accordi commerciali stretti con paesi che possono produrre a basso costo in sostanza e che evidentemente creano problemi a questo settore italiano, che è un settore oggettivamente importante che per certi aspetti, come dimostrano i dati dell'Istat, dimostra una certa vivacità. Ne parleremo col presidente di Confagricoltura Mario Guidi, che sarà un nostro ospite. Ci occuperemo, così come ha fatto il nostro Oscar Giannino, anche della fusione, per farla semplice, tra la Repubblica e la Stampa, questo nuovo soggetto editoriale. È un fatto importante, lo dico francamente, noi insomma a volte ci occupiamo molto di queste cose perché siamo dei giornalisti e si tocca il nostro settore. La realtà è che è un fatto molto importante perché testimonia un cambiamento in un settore che ha vissuto una crisi enorme. Se considerate che per quanto riguarda lo specifico settore industriale dell'editoria è cambiato letteralmente tutto, è cambiato il modo di produrre le notizie, è cambiata la distribuzione, è cambiato tutto quanto, sono cambiate anche le fonti di ricavo e alcune fonti di ricavo si sono spostate evidentemente in altre direzioni, segnatamente quella pubblicitaria. Il tutto unito alla crisi devastante che ha colpito l'Italia, l'Europa e ovviamente tutti noi, questo ha avuto un impatto. Ebbene, questi sono primi segnali che insomma si sta muovendo qualcosa su questo fronte. Parleremo nello specifico di questa operazione, ci faremo raccontare al collega del Sole 24 Ore, Andrea Biondi, effettivamente come funzioneranno le cose da questo punto di vista. Parleremo anche del codice degli appalti. Oggi è stato finalmente approvato, grandemente atteso. Avete sentito qualche frase arrivata dal ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Graziano Del Rio, che lo avete sentito poco fa in GR24. Ci sono una serie di elementi interessanti e da valutare poi nell'attuazione pratica, perché come al solito in questo paese bisogna vedere come vanno a finire le cose. L'avete sentito, la fine del cosiddetto meccanismo del massimo ribasso, ossia che si vinceva la gara solamente abbassando il prezzo, il che consentiva, tra le altre cose e solo a titolo di esempio, l'inserimento di una serie di imprese all'interno degli appalti pubblici non propriamente specchiate, per così dire, che potevano permettersi appunto di abbassare il prezzo ai massimi livelli, e dall'altra parte altri elementi come la riduzione, o almeno così spera il governo, e vedremo nel dettaglio, ne parleremo più avanti, la riduzione del ricorso alle varianti in corso d'opera. Quante volte l'abbiamo raccontato anche nelle rubriche o nelle parti di trasmissione che Sebastiano Barisoni Meloni dedica agli sprechi pubblici, e tutte le volte che ci occupiamo di sprechi pubblici relativi alle opere, quante volte siamo occupati di queste varianti in corso d'opera che fanno lievitare i costi in maniera impressionante. Oggi il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha parlato della Salerno-Reggio Calabria, che mi sembra a questo punto di vista un esempio decisamente limpido. Ovviamente parleremo di mercati che oggi sono positivi, o meglio è positiva Milano, che guadagna lo 0,75% sul FTSE MIB, lo 0,69% sul FTSE O'Share, con il resto d'Europa sostanzialmente negativa. Parigi cede lo 0,20%, Francoforte lo 0,08%, Londra lo 0,22%, e non va bene nemmeno l'America. Lo Standard & Poor's 500 perde lo 0,12%, il Dow Jones lo 0,17%. Per quanto riguarda i singoli titoli, abbiamo Monte dei Paschi che va molto bene, più 6,18%, Telecom Italia il 5,0%, guadagna il 5,03%, Intesa San Paolo il 4,12%, Fiat Chrysler il 3%, in fondo al listino Luxottica che cede un 5%, Jux l'1,9%, Unipolsai l'1,61%, Tots l'1,5%, Enel Green Power l'1,32%. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve di oggi. Già qualcuno ci chiede via WhatsApp, ma anche oggi si parla di sanzioni alla Russia, è una campagna propagandistica pagata dal Cremlino? No, semplicemente è la descrizione di alcuni settori del nostro paese, in particolare l'agricoltura, in particolare il settore agroalimentare, che di questo hanno sofferto. Evidentemente ne dobbiamo tener conto, poi le decisioni politiche sono altre, evidentemente. Come sapete, l'Italia sta premendo perché ha premuto perché le sanzioni fossero rimosse, vedremo come andrà a finire. Detto ciò, ci sono dei settori che soffrono, per questo è evidente. Se poi tutto questo si somma a mercati, altri mercati che non tirano, a un'economia che insomma non è proprio brillantissima, è sotto gli occhi di tutti, no? Quello che succede. Iniziamo dalle materie prime come sempre. L'oro che guadagna lo 0,6% a $1,246 l'oncia, il petrolio con in lieve rialzo oggi, con il WTI con consegna d'aprile, no, nemmeno tanto lieve, perché quello con consegna d'aprile guadagna l'1,07% a $35,09 al barile, quindi sopra i $35. WTI è quello quotato a New York. Il Brent con consegna a maggio più 0,73% a $37,10 al barile. A proposito di energia, c'è la Commissione europea che ha approvato l'accordo tra la Grecia e la Trans Adriatic Pipeline, un progetto che spiega a Margaret Vestager, commissaria alla concorrenza, che migliora la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel sud-est Europa in osservanza delle regole, senza distorcere la concorrenza e il mercato. Il gasdotto è destinato a collegare la Grecia all'Italia, piccola chiosa. Noi non sappiamo ancora dove farlo arrivare, perché come sapete c'è una violenta protesta da parte degli enti locali pugliesi su questo tema. E vedremo anche questa come andrà a finire. Allora, ancora sull'economia internazionale, abbiamo il dato sul crollo dell'economia brasiliana nel 2015, i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica. L'anno si è chiuso con un meno 3,8% del PIL rispetto al 2014. Si tratta del peggior risultato dal 1990, quando venne registrato il meno 4,3%. Allora, giusto a memoria, cioè per riportare alla memoria i fatti, allora il Presidente della Repubblica, Fernando Collor de Mello, fece partire la confisca dei risparmi sui conti bancari della popolazione. Forse non sarà questo il caso, insomma. Però la situazione del Brasile è senza dubbio pesante. così come lo è quella della succitata Russia. Il PIL potrebbe registrare una flessione di poco superiore all'1%, questa è la stima della Banca Centrale, mentre l'anno scorso la flessione è stata del 3,7%. E qua pesano evidentemente le sanzioni da una parte, ma anche l'andamento del prezzo del greggio e del prezzo dell'energia in genere. Tra l'altro Mosca rivede l'inflazione al rialzo, potrebbe raggiungere quota 8-8,5%, la precedente stima era di un 5,5-6,5%. Nel 2015 è stata del 12,9%, nel 2014 dell'11,4%. Quando un'economia tira forte, insomma, soprattutto un'economia in fase di sviluppo come la Russia, ci sta anche, ma in questo caso, come vedete, l'economia non tira. La stessa Russia interviene dicendo il rinnovo delle sanzioni americane mina la cooperazione internazionale. Dagli Stati Uniti ci arrivano i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione, saliti oltre le attese la scorsa settimana, 278.000 contro i 271.000 previsti. E dall'Europa e da Eurostat il dato sul commercio a dettaglio nell'Europa 19, ossia nell'area euro un più 0,4%, nell'Europa a 28 un più 0,8 in gennaio. Oh, c'è tutta la questione dei migranti che si incrocia inevitabilmente con le questioni economiche. Ci sono certo le dichiarazioni del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che dice escludere la Grecia da Schengen non è né un fine né un mezzo, la Grecia resterà a far parte di Schengen, dell'Eurozona e dell'Unione Europea. C'è un appello di Tusk ai migranti economici potenzialmente illegali. Non venite in Europa, non date retta ai contrabbandieri. Nessun paese europeo sarà un paese di transito. C'è Tsipras che chiama il premier turco e gli chiede di ridurre i flussi. Chiede sanzioni a chi non rispetta i trattati. Ma soprattutto ci sono le prime stime che arrivano proprio in questi minuti dall'Europa, in un documento che è la roadmap, la strada per ripristinare il pieno funzionamento dell'area Schengen. Ebbene, emerge che dal punto di vista economico, recenti studi hanno mostrato che in caso di reintroduzione dei controlli alle frontiere interne, in un periodo di 10 anni la performance economica dell'Unione Europea nel suo insieme sarebbe ridotta di una cifra fra 500 e 1.400 miliardi di euro. L'Italia. Allora, accelera l'attività dei servizi, l'indice PMI su a 53,8, un dato migliore delle stime. E sul fronte dell'annosa e discussissima questione dei mutui, ossia il recepimento della direttiva europea che consente, dopo un tot di rate non pagate, il pignoramento della casa da parte della banca, la banca che la può rivendere senza, per farla molto semplice, senza le pastoie burocratiche che ci sono adesso e senza passare sette anni in tribunale, lo diciamo freddamente, senza, come dire, senza metterci qua a dire siamo dalla parte delle banche, siamo dalla parte di chi contrae un mutuo. C'è una bozza di parere predisposta dal Partito Democratico in Commissione Finanze, con modifiche però già concordate con il governo. E cosa prevede? Si prevede un'estensione delle garanzie già previste dallo schema di decreto, ossia le rate non pagate non devono essere 7, ma devono essere almeno 18. Inoltre, si tratta di mancato pagamento e non di ritardato pagamento. E

Dice il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, sicuramente verrà fatto prima o poi, l'importante è che prima portiamo a casa i risultati di opere incompiute, perché qui ci sono solo quelli che pensano di arrivare e portare a casa progetti faraonici, dice Renzi. Bisognerà capire costi e tempi, ma ancora non è possibile indicarli, perché prima devono finire i lavori sulle strade in Sicilia e in Calabria. Proprio qua, dice, entro Natale finiremo la Salerno-Reggio Calabria. Del ponte sullo stretto ha parlato anche lo stesso Del Rio. Ma il ponte sullo stretto che appassiona molto, il Presidente del Consiglio ha detto cose assolutamente condivisibili, cioè che sappiamo tutti che questo, il Paese ha molte priorità e che lui ritiene e si ritiene che però il ponte sullo stretto sia una delle opere da valutare seriamente per collegare la Sicilia con la Calabria e per assicurare collegamenti effettivi. Quindi stiamo continuando a lavorare sulle priorità e continuando però a non dimenticare che c'è questa prospettiva. Ancora un paio di notizie in breve prima di andare alla pausa, al meteo e poi a parlare, come si diceva, di agricoltura e poi di editoria. Allora, Volkswagen ha ammesso che l'ex amministratore delegato Martin Winterkorn era stato informato del Dieselgate tempo prima che lo scandalo giungesse allo scoperto. Ma quanto tempo prima? Un anno e mezzo, già nel maggio del 2014. Nonostante questo, vi leggo un'agenzia un po' incomprensibile, nonostante questo l'azienda ritiene di aver adempiuto regolarmente a tutti i doveri di informazione sulla vicenda. Per cui le azioni giudiziarie promosse dagli azionisti per violazione del dovere di informazione secondo la normativa relativa al mercato dei capitali sono, a detta di Volkswagen, infondate. E infine una notizia italiana per restare in tema di auto, ve lo accennava già il giornale radio, è una sentenza importante che riguarda il servizio Uber Pop, quel servizio che consente tramite un'app di utilizzare, diciamo così, come tassista chiunque abbia un'auto. Ebbene, il Tribunale di Milano ha deciso che è legittimo il sequestro operato dagli agenti della polizia locale dell'auto di un autista Uber Pop. Ha annullato così la decisione di un giudice di pace che, come altri suoi colleghi, aveva accolto il ricorso appunto presentato da un autista. Era stato lo stesso Comune di Milano a rivolgersi al Tribunale. 349-238-6666 per i vostri sms, per i vostri messaggi su WhatsApp. Una pausa, a tra poco. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo a parlare di uno dei settori industriali di questo paese, o meglio, non industriali, in realtà andiamo a parlare del settore primario, ossia dell'agricoltura. Ed è con noi il presidente di Confagricoltura, Mario Guidi, buonasera. Buonasera a voi. Ed è qua perché si è svolto oggi uno degli appuntamenti di Confagricoltura Academy. Che cosa sono? Sono degli appuntamenti nei quali l'associazione mette insieme appunto gli associati per parlare in realtà di grandi temi. Oggi si è parlato anche di migranti e di Europa, non solamente ovviamente dei temi specifici del settore, con l'idea appunto che un imprenditore debba anche conoscere il contesto generale nel quale opera, non solamente quello specifico del suo settore. Vogliamo parlare e vorrei parlare appunto innanzitutto partendo dai dati che ci sono arrivati l'altro giorno dall'Istat, i dati sul prodotto interno lordo, lungamente ne abbiamo parlato. Ebbene, tra questi si segnala quello sul valore aggiunto dell'agricoltura, un più 3,8% complessivamente. Come li dobbiamo interpretare questi dati? Perché apparentemente sono dati positivi, invece mi diceva Guidi subito prima della trasmissione che c'è qualche problemino. Sì, in verità stiamo ancora cercando di leggere questi dati. È certo un fatto. Noi oggi stiamo vivendo un grande paradosso. Di agricoltura si parla sempre di più, del cibo, dell'alimentazione. Abbiamo appena finito un Expo che ha parlato di noi, della centralità dell'agricoltura anche come settore economico. aumentiamo il nostro tasso di esportazione, quindi stiamo conquistando nuovi mercati, eppure ancora molti settori dell'agricoltura sono in crisi, probabilmente perché non riusciamo a trasferire fino alle aziende vere e proprie questa capacità di generare valore aggiunto. E quindi uno dei temi anche di questa Academy sarà capire come un nuovo Ministero dell'Agroalimentare, il Ministero dell'Agricoltura, potrà riuscire a intercettare questo valore aggiunto positivo per portarlo fino alle aziende produttrici di base. È un tema di un'innovazione, diciamo, di posizionamento nella catena del valore che le aziende agricole devono avere sempre di più. Questo in realtà è un problema storico, no? Che molto del valore si perda, per così dire, lungo la filiera. Sì. E però mi sembra di capire che questo sia un momento particolare da questo punto di vista, dovuto anche a dei prezzi molto bassi delle materie prime agricole. È così, abbiamo avuto nel corso degli ultimi anni forse una specie di franchigia rispetto alla dinamica dei prezzi mondiali e forse anche rispetto ai consumi anche interni del nostro paese. L'agricoltura è anticiclica, quando gli altri settori sono in crisi l'agricoltura ancora non lo è. Quando gli altri settori tendono a uscire dalla crisi, l'agricoltura tocca probabilmente il fondo. E quindi le dinamiche internazionali dei prezzi, anche a causa del prezzo del petrolio, sono molto molto basse, ai minimi storici da ormai 10 anni. Occorre quindi un cambio di strategia che non è solo... Chi è che sta soffrendo di più per questo? Quali aziende? Ma dal nostro punto di vista il settore zootecnico, lattiero caseario e il settore dei cereali in primis, perché soffrono le dinamiche mondiali. Il latte di fatto, se non è trasformato in formaggio, è una commodity, né più né meno come il grano, e quindi il combinato disposto tra la riduzione dei consumi e l'aumento della produzione a livello europeo e mondiale riduce e comprime i prezzi, al punto che ne vogliamo ridiscutere a livello europeo. Proprio a proposito di questo, e poi ci verremo alla ridiscussione a livello europeo, leggevo che il ministro dell'agricoltura, prossimo ministro dell'agroalimentare, forse Maurizio Martina, sta preparando un pacchetto ortofrutta, perché l'impatto pesante è stato anche là, cioè si verifica un po' in tutti i settori, cioè i prezzi addirittura non coprono i costi di raccolta. È così, ed è così in maniera ciclica ormai da un po' di tempo. Soprattutto soffriamo per certi settori la concorrenza, io dico un po' sleale, rispetto ad altri paesi che hanno costi di produzione decisamente più bassi e hanno modalità di affrontare la salubrità del prodotto molto diverse. Mi riferisco agli accordi euro-mediterranei, agli accordi di importazione di riso dai paesi dell'est asiatico e tanti altri accordi che minano la nostra capacità di reggere queste sfide. Occorre quindi ragionare meglio su come l'agricoltura italiana, il modello di agricoltura che noi vogliamo, possa essere tra virgolette difeso, anche se è un termine che non mi appassiona molto, perché noi siamo un grande paese esportatore di prodotti ortofrutticoli e anche di prodotti trasformati, e quindi non possiamo pensare di voler esportare se chiudiamo le nostre barriere. Occorre lavorare forse di più. Ma in che modo? Ci spieghi, perché l'automatismo intellettuale quasi che viene da fare in questi casi è va bene, allora mettiamo dei dazi o chiudiamo l'importazione di questi prodotti o blocchiamo qualcosa. Molto si è discusso per esempio della vicenda dell'olio tunisino, sì. Là con un certo paradosso, se vogliamo, no? Perché abbiamo parlato molto della Tunisia dopo gli attentati del Bardo, dopo altri attentati che ci sono stati, dicendo lì dobbiamo aiutare come Europa, dobbiamo aiutare questa democrazia nascente, e poi però ci siamo ritrovati con grandi proteste anche di piazza contro l'import di olio tunisino, che è l'unica cosa che gli rimane, perché finito il turismo quello c'è. È così, certamente la nostra società anche agricola deve ragionare sul proprio futuro ma anche sulla propria contemporaneità. L'agricoltura è un grande pacemaker, un grande pacificatore delle dinamiche mondiali, e il tema dell'immigrazione, della migrazione dei popoli è un tema che riguarda l'agricoltura. Detto questo, quando le società economiche decidono di fronteggiare un fenomeno come quello della migrazione, deve tener conto però anche dell'impatto che queste autorizzazioni vengono date a sul sistema interno, altrimenti si finisce per aiutare qualcuno che poi dovrà essere aiutato da qualcun altro. Che cosa chiediamo noi? Di misurare questo impatto, ma soprattutto di verificare i livelli di reciprocità. Che cosa voglio dire? Se in un determinato paese vengono utilizzati fitofarmaci, cioè i prodotti che servono per curare le piante, che in Italia lo Stato italiano o l'Europa non vuole che io, agricoltore italiano, usi per il bene del consumatore, Fatico a capire come possiamo autorizzare l'importazione di prodotti che sono tenuti con questi fitosanitari che noi non possiamo utilizzare. Si parla di reciprocità, quindi niente dazi, niente barriere tarifarie, solo rispetto di una reciprocità produttiva che credo vada a tutto beneficio del consumatore italiano, altrimenti si troverebbe a consumare prodotti che non sono l'equivalente di quelli italiani. E poi l'altra cosa che dobbiamo fare, di più di quanto non facciamo, fare una vera promozione dei nostri prodotti in Italia e nel mondo, perché possiamo conquistare i mercati che oggi l'Italian Sounding invece appartengono all'Italian Sounding, per esempio. Quindi l'idea è l'istituzione di una sorta di barriera legale all'ingresso di questi prodotti, no? Cosa che gli Stati Uniti fanno abilmente da tantissimi anni. Lo sappiamo benissimo, noi perché questo lo abbiamo sofferto, esatto, tantissimo, tra l'altro. E no? Tuttora. E tuttora lo soffriamo. E per questo motivo noi come Confagricoltura questo accordo transpacifico con gli Stati Uniti di libero scambio non lo vediamo in maniera completamente negativa, perché quello è un mercato da 500 milioni di individui che a me come agricoltore, come agroalimentare, interessa molto. Occorre però che noi trattiamo in una logica win-win, ovvero vinciamo noi, vincono loro, in una parità di regole, perché altrimenti l'agricoltura italiana ed europea è destinata a sparire. Senta, un altro snodo mi sembra che rimanga la Russia. Tanto per i dazi quanto per il fatto che il paese in questo momento, l'embargo, quanto per il fatto che il paese in questo momento è sostanzialmente in recessione. È così, non ci eravamo resi conto di quanto fosse importante per noi la Russia. Era importante per noi per il commercio diretto, che cuba circa 1 miliardo di euro, non tantissimo sui 36, ma importante per altri paesi d'Europa e per la Turchia, che oggi riversano i loro prodotti sul mercato italiano ed europeo, non avendo più quella valvola di sfogo. Ora, quindi, questi embarghi che pesano in particolare su un settore, quello agroalimentare, non solo italiano. No, questo però è uno spunto interessante. Le chiederei di soffermarsi, perché noi spesso parliamo appunto del problema che hanno i nostri prodotti ad arrivare in Russia. Però quest'altro aspetto, insomma, su quest'altro aspetto ci si ragiona poco, sul fatto che, certo, no, i tradizionali esportatori verso la Russia riversino i prodotti da questa parte. Polonia, Germania, Turchia ultimamente ed altri paesi, diciamo, dell'est Europa, avevano un commercio molto più fiorente, con un interscambio molto più fiorente con la Russia. Quando questo si è chiuso, è ovvio che le mele polacche, se non trovano lo sfogo sul mercato russo, tendono a venire collocate in Italia o nel resto d'Europa. Quindi c'è e questo contribuisce al calo dei prezzi di cui parlavamo. A un aumento dell'offerta endogena, quindi non avendo creato nuovi canali commerciali verso altri paesi, si riversano nel centro Europa, in tutta l'Europa, e riducono, aumentano l'offerta e quindi riducono i costi di produzione. Quindi c'è una concorrenza interna al sistema europeo per via di una chiusura rispetto a un determinato paese. Questo si verificherebbe in qualsiasi caso, ecco. E poi c'è un altro elemento, che è la Cina, che si è scoperta non poter sostenere quei ritmi di crescita che aveva abituato negli ultimi anni, e quindi la Cina compra per esempio meno soia, meno prodotti basici per le loro trasformazioni, anche se è un paese che avrà ancora dei ritmi di crescita importantissimi. Occorre vedere bene le dinamiche mondiali, quindi il prezzo di un prodotto italiano è comunque influenzato dalle dinamiche mondiali. Senta, per chiudere, e non vorrei che sembrasse un po' come il chiedere all'oste se il vino è buono, però vorrei capire se questa nostra scarsa capacità competitiva di prezzo dipenda anche da una scarsa capacità di innovazione delle aziende, cioè quanto le aziende sono in grado di innovare. Faccio un esempio, perché è il grande tema di questi ultimi 2-3 anni, per esempio con la robotica, sì, o con sistemi di analisi dei dati di quello che si produce più efficienti. Insomma, questo teoricamente potrebbe contribuire a una riduzione dei costi e quindi alla capacità di tenere i prezzi più bassi. Quanto avviene questo? Non sono un po' deboli le nostre aziende da questo punto di vista? Moltissimo, il tasso di crescita sarebbe enorme. Ogni 10 euro, è stato stimato, ogni 10 euro di investimento nella ricerca e nell'agricoltura viene restituito nell'arco di 10 anni moltiplicato 25 volte, con una capacità di moltiplicazione che non esiste in nessun altro settore. Purtroppo noi abbiamo lasciato vedere l'agricoltura come un settore spesso tradizionale, bucolico, in cui la tecnologia ha poco impatto. È tutt'altro. Per esempio le reti digitali, la connessione sono ed estremamente utili in agricoltura, perché le aziende agricole sono molto disperse. Il problema è il paese, che grava sulle spalle delle aziende agricole, come sulle spalle degli altri imprenditori, in maniera enorme, e sono molti di più i costi fissi, i costi generali, che non i costi di coltivazione. Investire in ricerca e innovazione è il nostro futuro. Si dice spesso che l'Italia agricola è l'Italia della tradizione. A ben vedere, la nostra tradizione era ed è l'innovazione. Quindi l'innovazione è quella che ci salverà anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Innovazione di tutti i tipi, anche quella sulla genetica. Allora, la ringrazio, grazie a Mario Guidi, presidente di Confagricoltura, per essere stato con noi. C'è qualche SMS arrivato, magari ne leggiamo un paio subito dopo il traffico. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, così rispondiamo anche all'ascoltatore che su WhatsApp ci dice se il programma prevede interventi agli ascoltatori, non in diretta, non telefonate, salvo in casi eccezionali e rarissimi, ma potete evidentemente scriverci. Antonio ci chiede come fanno gli Stati Uniti a proteggere i loro prodotti. Beh, ci sono una serie di barriere legali che mettono, a volte giustificate, a volte meno giustificati. E sono barriere banalmente su come è fatto un prodotto, su un presunto rischio sanitario. Ci dice un altro ascoltatore, fate riflessioni fuori da ogni logica, compro prodotti tunisini, etiopi o africani perché costano poco, non ho soldi per comprare agricoltura italiana, è meglio morire di fame o di malattie per i fitofarmaci? Dice, non tenete conto della realtà. Qua il ragionamento è un po' diverso. Guidi ci diceva, guardate, noi dobbiamo sottostare a una serie di disciplinari molto molto rigidi, molto molto rigidi, e veniamo sovrastati da prodotti che sono asimmetrici rispetto ai nostri da questo punto di vista, perché non devono sottostare a quei disciplinari e ovviamente costano molto di meno. Oh, detto ciò, probabilmente costerebbero molto di meno anche se dovessero sottostare a quegli stessi disciplinari, perché comunque il costo del lavoro in quei paesi è diverso, eccetera, eccetera. Detto ciò, è un fattore di concorrenza, diciamo così, non vogliamo dire sleale, però insomma non, che le nostre imprese sentono come non propriamente corretto, visto che appunto ci sono grandi paesi come gli Stati Uniti che questo tipo di barriere le impongono. Allora, o il mercato è pari per tutti o le persone prendono i propri provvedimenti. Questo non vuol dire mettere dei dazi, si sta parlando semplicemente di barriere che possono essere di tipo sanitario, tanto per fare un esempio, e che consentano di far arrivare nei nostri mercati, nei nostri supermercati, dei prodotti che rispondano più agli standard italiani. Poi siamo prodotti fuori o no. Allora, abbiamo parlato di un settore, come si diceva, un settore dell'economia, perché non possiamo definire settore industriale, perché tradizionalmente è il settore primario, ossia quello dell'agricoltura. Parliamo adesso invece di un settore industriale, che è quello dell'editoria e del nuovo polo dell'editoria che nasce dalla fusione tra il gruppo L'Espresso e i Tedi, quelli che in sostanza editano La Stampa e Il Secolo XIX. Ieri ne abbiamo accennato, ne ha accennato Sebastiano Barisoni in Focus Economia. Oggi abbiamo i dettagli dell'operazione, quindi valeva la pena fare un approfondimento di nuovo con Andrea Biondi del Sole 24 Ore. Andrea, eccoci. Buonasera. Allora, dacci innanzitutto le linee guida societarie di questa operazione. Sì, allora, le linee guida societarie... Per quanto complesse, però prego. Sì, sono molto complesse, se per questo in effetti. Allora, qui di che cosa stiamo parlando? Qui stiamo parlando di una fusione per incorporazione, cioè i Tedi, che è il gruppo che edita La Stampa e il Secolo XIX, verrà fusa per incorporazione nel gruppo L'Espresso. Il gruppo L'Espresso, che edita a sua volta Repubblica, oltre a tutta una serie di quotidiani locali che fanno parte del gruppo Finegil, insomma, che fanno parte della divisione Finegil. E quindi verrà a crearsi questo gruppo, ma a partire da questo nuovo gruppo L'Espresso, ma a partire da inizio 2017. Il closing, cioè il perfezionamento dell'operazione, è previsto per marzo del 2017, entro il primo trimestre del 2017. Quello che è stato fatto ieri, è stato comunicato ieri, è la firma di un memorandum d'intesa, cioè le parti si sono impegnate a finalizzare questa operazione. Dopodiché l'accordo deve essere preso definitivamente, formalmente, anche segnalando i concambi, entro giugno. Da allora in poi potrà partire tutta l'operazione che negli auspici dei due gruppi dovrà concludersi entro il primo trimestre del 2017. Che cosa succede alla fine dal punto di vista societario? Nel gruppo L'Espresso la famiglia De Benedetti, attraverso CIR, va a perdere la maggioranza, scende nella maggioranza, perché ora nel gruppo L'Espresso CIR ha il 54%, gli altri azionisti il 46%. Invece nella nuova entità CIR avrà il 43%. Sì. E quindi già questa è una situazione importante da segnalare. I Tedi è composta al 77%, è posseduta al 77% da Fiat Chrysler e al 23% dalla famiglia Perrone, coloro i quali avevano il secolo XIX. Sì. La quota FCA Fiat Chrysler ha deciso che vuole uscire dall'editoria, e quindi cosa succederà con il nuovo gruppo? Il nuovo gruppo avrà, come abbiamo detto, un 43% di CIR, quindi di De Benedetti, in sostanza, no? Esattamente. E poi Exor, che di fatto la cassaforte degli Agnelli, in sostanza, avrà un 5%, avrà un 5%. Dopodiché un 5% avrà anche la famiglia Perrone, ma tutto questo, poi alla fine si inserisce in un risico alla fine che vede anche dei riflessi su RCS, perché Fiat Chrysler è presente in RCS e ha deciso di disimpegnarsi sostanzialmente, di vendere, in sostanza. Esattamente, quindi il nuovo gruppo sarà più o meno in queste... Che fine faranno le quote RCS in mano a Fiat in questo momento, Andrea? Questo non si può dire, sicuramente non saranno date, come è stata data comunicazione oggi, non saranno vendute in blocco, quindi a un solo soggetto, ma saranno messe sul mercato. E quindi la verità è che al momento RCS perde il suo azionista forte, un azionista che lo è stato per tanti anni, perde il suo azionista forte, e però alla fine adesso infatti bisognerà vedere da ora in avanti quali saranno gli sviluppi di questa vicenda. Al momento, se non erro, il primo azionista di RCS è Diego Della Valle, ma con un 7 qualcosa per cento, quindi insomma esattamente, seguito poi da Mediobanca, che in qualche modo ha detto di voler disimpegnarsi, c'è Urbano Cairo, insomma chiaramente l'azionariato è molto composito per un gruppo come RCS, che deve trovare chiaramente una sua stabilità. In 30 secondi, in 30 secondi Andrea, perché poi dobbiamo andare a chiudere, c'è la pubblicità e c'è il giornale radio. Il fronte antitrust, che immagino, insomma, al quale evidentemente chiederanno, no? Lumi. Allora, il fronte Agicom e antitrust saranno due fronti da tenere assolutamente d'occhio a partire chiaramente da giugno, quando sarà formalizzato l'accordo. Perché la legge sull'editoria ha dei limiti sulle concentrazioni, cioè si parla di posizione dominante se si edita oltre il 20, se vengono tirate, se diciamo il nuovo gruppo ha una tiratura superiore al 20% della tiratura nazionale. A questo punto, come dire, già questa è una soglia. L'antitrust dovrà a sua volta occuparsi della cosa, perché le dimensioni, allora, delle due Andrea, aziende... Andrea, ti faccio chiudere su queste soglie, però lo dobbiamo fare dopo il giornale radio. Ti rubo un altro minuto e poi ti lascio al tuo lavoro. Pausa, GR24, ci sentiamo subito dopo. Sono dappertutto. Arrivisti, truffatori, ladri, corrotti. L'Italia sembra perduta. Eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta. Si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia. 349-238-6666 per i vostri sms, per i vostri messaggi su WhatsApp. Molti ne stanno arrivando sull'intervista che abbiamo fatto in apertura, quella con Mario Guidi, presidente di Confagricoltura. Il tema evidentemente è aperto, ossia se imporre condizioni più rigide ai paesi che importano a basso prezzo verso l'Italia, condizioni più rigide da un punto di vista legale, per così dire, e regolamentare. Faccio solo notare agli ascoltatori che scrivono, forse sbagliando un po' il tiro, qua non stiamo parlando di industria agroalimentare, che è un altro discorso. Qualcuno cita i prodotti italiani fatti con... materie prime diverse che vengono da fuori. Stiamo parlando di puramente di agricoltura. Ma torniamo alla questione della fusione tra Itedi e Cire, quindi, per farla semplice, tra La Stampa e Repubblica. Ed eravamo rimasti in sospeso con Andrea Biondi sulle autorizzazioni che dovrebbero arrivare da Agicom e Antitrust, sui limiti che impongono Agicom e Antitrust, o meglio, le leggi, e che Agicom e Antitrust devono far rispettare. Andrea? Eccoci, sì, in effetti. Allora, vai. Ci sono allora dei passaggi regolamentari che saranno importanti, anzi decisivi, anche perché nella stessa comunicazione di ieri, come di prassi del resto, è stato indicato che il percorso, che dovrà concludersi, ripeto, entro il primo trimestre del 2017, è subordinato alle autorizzazioni regolamentari. Autorizzazioni regolamentari necessarie per questo gruppo da 750 milioni di ricavi, mettendo insieme tutte queste varie entità, che mette insieme Repubblica e La Stampa, oltre ad altri giornali, quindi il terzo e il quarto quotidiano nazionale, che avrà nell'azionariato, come dicevamo, la CIR al 43%, Exor al 5%, la famiglia Perrone un altro 5%, un flottante del 36% e altri azionisti Fiat all'11%, ma che chiaramente va a porsi come un colosso dell'editoria e che andrà verificata la fattibilità sulla base appunto di questi limiti. I limiti sono posti nella legge sull'editoria, che è una legge dell'81 con le successive modificazioni, che prevede un parametro in particolare, cioè la posizione dominante è individuata qualora i due gruppi vadano ad avere una tiratura superiore al 20% della tiratura dei quotidiani nazionali. Fatta 100 la tiratura, se loro fanno più del 20%, quella è una posizione dominante e non può stare in piedi. L'antitrust dall'altra parte invece andrà a valutare la questione sul fronte dei fatturati e dovrà prendere atto, dovrà prendere visione, esame della cosa, perché le due aziende, sia l'azienda target che l'azienda compratrice, superano i parametri necessari per entrare sotto esame dell'antitrust. Ora bisognerà vedere da giugno in poi che cosa, ma anche fino a giugno, che cosa faranno, perché chiaramente un'idea sulle tirature ci sarà molto probabilmente, quella limite del 20%, messi insieme anche i quotidiani locali, insomma quel limite del 20% e il limite sulle locali può essere superato, quindi che cosa faranno i due gruppi adesso? Ridurranno le tirature, penseranno magari già a delle possibili cessioni, ecco, tutto questo sarà anche da vedere nel corso, certo, nel corso dei prossimi mesi, perché chiaramente è un'operazione sulla quale hanno puntato fortemente e non credo che come dire, la questione dei limiti sia una questione che possa diventare poi dirimente o invalidante, capisco benissimo. Allora, grazie ad Andrea Biondi del Sole 24 Ore, ti ringrazio. Per chiudere questo capitolo dovremmo avere, adesso ci andiamo, anche le quotazioni dei gruppi coinvolti. Dunque, parliamo di borsa. La giornata è positiva, più 0,78% per il FTSE MIB, più 0,68% per il FTSE O'Share, negative le altre borse europee, meno 0,20% per Parigi, meno 0,25% per Francoforte, negativa anche l'America, meno 0,27% sul Dow Jones, meno 0,23% sullo Standard & Poor's 500, meno 0,27% anche l'indice di Londra, il FTSE 100. Paolo Paronetto, Radio Corriere del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera a tutti, ciao a te. Allora, prima di andare ovviamente ai due titoli dei quali parlavamo, ai titoli coinvolti nella vicenda, voglio ovviamente un quadro generale. Come mai Milano va bene e tutte le altre vanno male, per farla molto semplice? Ma diciamo che il clima in generale è stato abbastanza di prudenza dopo i dati macroeconomici americani del pomeriggio, che sono stati misti, diciamo 2 su 3 però negativi, e soprattutto in attesa del dato di domani, quello sul mercato del lavoro americano, che naturalmente è molto atteso. Milano ha fatto meglio delle altre borse europee, trainata dalle banche che oggi, senza alcun motivo particolare, ma oggi hanno visto una giornata sostanzialmente positiva, soprattutto banche MPS, che lo ricordiamo spesso è piuttosto volatile in attesa di capire quali potranno essere eventuali novità sul fronte del consolidamento. Sul finale c'è stato anche uno sprint di Telecom Italia, che alla fine ha chiuso in rialzo del 5,67%, risentendo di indiscrezioni sul fatto che l'azionista francese Vivendi starebbe valutando una possibile sostituzione dell'amministratore delegato Marco Patuano. Eh sì, Monte dei Paschi più 6%, Telecom Italia più 5,6%, Intesa San Paolo più 4,04%, Mediolanum più 3,5%, bene anche Mediaset più 2,7, Ubibanca più 2,26, Anima più 2,24. Invece in fondo al listino c'è Luxottica, che perde un 4,7. Sì, Luxottica conferma l'andamento negativo già registrato ieri dopo la pubblicazione dei conti 2015, che sono stati in crescita e sostanzialmente in linea con le previsioni, anche se alcuni analisti sono rimasti delusi dai dati sulla marginalità, quindi sulla redditività della società, e questo anche alla luce soprattutto dell'outlook per il 2016. In particolare la crescita della redditività annunciata dal gruppo sarà inferiore a quella registrata in passato a causa dell'aumento degli investimenti, qualcosa che ha deluso in parte il mercato. Fiat Chrysler più 2,19%, ma in questo caso non c'entra nulla l'operazione della quale parlavamo sopra, no? No, in questo caso Fiat conferma un trend positivo che già da qualche giorno la vede salire anche alla luce dello salone dell'auto di Ginevra. In più torna in parte speculazione di possibili alleanze, in particolare con Peugeot. Gli amministratori delegati di entrambe le case hanno negato contatti, però in un'intervista sulle 24 ore il numero uno di Peugeot, Carlos Tavares, ha detto che comunque loro sono pronti a valutare qualunque proposta che crei valore. Infine, i titoli coinvolti nella vicenda Stampa Repubblica, sempre per semplificare. Ma diciamo che oggi è stato soprattutto una giornata di realizzi, in particolare RCS ha perso il 7,87, qui pesa anche il rischio che arrivino molti titoli in vendita sul mercato, vista l'annunciata uscita appunto di Fiat Chrysler. Sono stati realizzi anche per i titoli L'Espresso, che ieri avevano guadagnato quasi il 16%, oggi hanno perso il 2,23%, mentre continua il buon momento di tutti gli altri titoli dell'editoria, naturalmente anche questi sulla scia proprio del fermento innescato dall'annuncio dell'accordo. Grazie Paolo Paronetto, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, poi ci occuperemo di questo nuovo codice appalti varato oggi dal governo, è il grande tema che attraversa sempre questo paese, da una parte le opere, i lavori, come vanno, quanto sono lenti, quanto ci costano, dall'altra il tema anche della corruzione in appalti di vario genere, non solamente quelli per le opere ma anche quelli per i servizi. Ne parliamo dopo il traffico. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Focus Economia. Ovviamente, nel momento nel quale ci mettiamo a parlare di un provvedimento governativo di qualche tipo, preventivamente, prima ancora che ne parliamo, arriva il solito ascoltatore che dice: dai, anche oggi la leccata a Renzi. Mamma mia che fatica, ragazzi. Ah. Quello che vogliamo fare qua è esattamente analizzare i provvedimenti, che a volte funzionano, a volte no, quando non ci sembra che funzionino lo diciamo, quando ci sembra che funzionino lo diciamo, senza guardare a chi sia al governo. E ci avvaliamo di una voce ampiamente autorevole su questo, che è Giorgio Santilli, è Il Sole 24 Ore. Ciao Giorgio, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, varato il nuovo codice degli appalti, innanzitutto l'opera di semplificazione, e di questo va dato atto. Chiedo scusa a chi è pregiudizialmente antigoverno, però insomma, si passa ad una semplificazione netta, ai 660 articoli e 1500 commi a 217 articoli, che già è qualcosina, anche se 217 articoli è comunque un bel numero. Alcuni punti in essenza, per così dire, ci si vuole allontanare completamente dall'ottica delle gare al massimo ribasso e si vuole applicare quello che un ingegnere ci ha scritto poco fa. Tra l'altro un curioso omonimo, l'ingegner Luigi Di Maio, ci dice: non conosco le novità del codice degli appalti, ma l'offerta economicamente più vantaggiosa, ossia quella tecnica ed economica insieme, è già prevista. In questo caso mi sembra di capire, Giorgio, che sia stata estesa l'applicazione, cioè sia stata presa come quella fondamentale da utilizzare, no? Sì. Nel vecchio codice, che peraltro è ancora in vigore, venivano indicati una serie di metodologie di gara, chiamiamolo così, tra cui c'erano il massimo ribasso e l'offerta economicamente più vantaggiosa. Ora il nuovo codice propende decisamente per questo, il massimo ribasso resta soltanto per piccoli appalti, diciamo, marginali, ma soprattutto, se mi consenti, c'è un'altra cosa importante. Sì. Che nell'offerta economicamente più vantaggiosa, cioè esiste una commissione di gara che valuta, oltre al prezzo, che evidentemente è un numero, valuta anche la qualità dell'offerta, che può essere un progetto, che può essere il modo in cui si esegue, eccetera. Ecco, qui c'è una novità importante: le commissioni di gara, che sono un fenomeno di gravissima corruzione in Italia e anche di mancata efficienza poi economica del sistema, perché chiaramente quando si favoriscono gli amici o diciamo soggetti che non sono quelli più efficienti, questo è il risultato. Ecco, queste commissioni di gara non saranno più nominate direttamente dalla stazione appaltante, tutto sommato, come dire, in maniera piuttosto riservata, in una sorta di camera caritatis, ma saranno sorteggiati, i componenti di queste commissioni saranno sorteggiati all'interno di un albo che dovrà tenere l'autorità anticorruzione. Già, perché il punto è proprio quello, perché uno dice, va bene, ma come la stabilisco l'offerta che appunto è insieme tecnicamente, economicamente più vantaggiosa, se lo affido alla stazione appaltante, dove può esserci qualcuno che prende la mazzetta, detta proprio brutalmente, è evidente che sceglierà qualcuno che, come dire, opererà la scelta che vuole la stessa stazione appaltante o una persona all'interno della stazione appaltante. In questo modo dovrebbe essere un po' più garantita, come dire, da questo punto di vista. Se mi consenti, Simone, però, e questo vale anche per quei lettori che sono critici a priori, oggi, a parte che è una prima approvazione che avrà bisogno poi di una seconda approvazione entro il 18 di aprile, ma qui stiamo parlando di norme, poi evidentemente queste norme vanno applicate, per cui, a proposito della cosa di cui stiamo parlando, va benissimo se l'ANAC, cioè l'autorità anticorruzione, sarà in grado di distillare un albo di persone particolarmente efficienti e capaci, preparate professionalmente e capaci quindi poi di sostenere questo compito. Quindi intendo dire che la norma poi va applicata concretamente nel mercato, quindi è chiaro che se noi oggi diciamo che ci sono delle innovazioni importanti, poi per vedere dei cambiamenti radicali come si vorrebbero porre, avremo bisogno ancora di capire se queste norme poi vengono applicate nel modo giusto. Allora, Giorgio, ti vorrei portare su un altro elemento che mi ha interessato nella lettura del comunicato stampa arrivato dal governo, ed è quello delle varianti in corso d'opera. Storicamente, come anche tu hai raccontato molto alle colonne del Sole 24 Ore, come dire, una fonte di spese, chiamiamole così, impreviste, piuttosto possente nella storia, soprattutto delle grandi opere. Da questo punto di vista c'è un'idea di riduzione. Attraverso che cosa passa? Attraverso che meccanismi passa? Perché dal comunicato di Palazzo Chigi non è che si capisca benissimo. Allora, cominciamo da un dato statistico, che non è un dato che tiene conto dell'universo del mercato, ma insomma è significativo. Anche qui citerò l'autorità anticorruzione di Raffaele Cantone, che riceve dalle stazioni appaltanti le comunicazioni sulle varianti in corso d'opera. Beh, come per l'altro grande tema di inquinamento del mercato, le trattative private, anche le varianti in corso d'opera sono una maggioranza schiacciante nei casi reali, cioè il 90% delle opere che oggi vengono realizzate, lavori pubblici, oltre il 90% fino al 95%, hanno una variante in corso d'opera. Quindi capiamo, e siccome la variante in corso d'opera significa che fermo il lavoro, discuto la variante, la riserva che fa l'impresa, la variazione progettuale, quindi aumento di tempi di realizzazione dell'opera e poi aumento dei costi, perché in genere queste varianti sono varianti costose, ecco che vediamo che questo è un elemento di inquinamento gravissimo per il settore. Da che cosa nasce in genere? Dal fatto che i progetti sono fatti molto male e dal fatto che non c'è una sufficiente vigilanza da parte di un ente terzo degli accordi che fanno la stazione appaltante e l'appaltatore sulle varianti in corso d'opera. Quindi come si interviene in questo caso? Si ha l'ambizione, e qui però devo dire che qui io mi riservo di dare un giudizio, si ha l'ambizione in questo codice degli appalti di migliorare la qualità progettuale. Ecco, io qui mi riservo un giudizio, perché capisco l'intenzione, capisco che stiamo parlando di un processo non facile, però forse si poteva fare uno sforzo in più su questo aspetto. Sull'altro aspetto, quello della vigilanza, invece noi sappiamo che il sistema cambia veramente molto, perché al centro di questo sistema arriva questa autorità, che non è nuova ma che assume nuovi poteri, appunto questa di Cantone, l'autorità anticorruzione, che che dovrà vigilare con strumenti molto più forti, molto più potenti, quindi andrà anche a verificare meglio di come accada oggi. Oggi c'è soltanto una comunicazione, se io faccio una variante in corso d'opera te lo devo dire, dopo l'autorità potrà verificare se questa variante in corso d'opera era giustificata o meno. Quindi da una parte c'è un meccanismo tipicamente repressivo, ti sanziono se non era giustificata, dall'altra bisogna intervenire però sul processo, diciamo che è un processo industriale, per cui questi progetti siano fatti meglio, ci sia meno bisogno e ci sia anche meno la possibilità poi per l'appaltatore di fare un po' quello che vuole e quindi decidere la variante. E certo, l'ultimo punto, perché poi dobbiamo andare a chiudere, sul quale ti voglio portare e che riguarda, se vuoi, sempre il tema della lentezza con la quale vengono realizzate le opere, è le raffiche di ricorsi, no? Delle quali spesso ci occupiamo, il TAR e poi il Consiglio di Stato, eccetera, eccetera, e lavori che spesso rimangono bloccati. Da questo punto di vista, da quel che ho letto, anche qua c'è l'intenzione di accorciare i tempi o comunque rendere tutto un po' meno burocratizzato, per così dire. Ma sì, allora qui diciamo che la scelta che fa il codice in maniera abbastanza netta, abbastanza chiara, è quella di fronte a casi di contenzioso che si vengono a creare praticamente in maniera, come dire, anche qui quasi il 100% dei casi, o comunque insomma una larghissima maggioranza dei casi d'appalto. Che cosa prevede questo nuovo codice? Prevede che si faccia un po' meno ricorso, e qui parliamo della parte in cui poi c'è l'esecuzione del contratto, si faccia un po' meno ricorso al giudice, che è una modalità che chiaramente richiede tempi in genere molto lunghi, sappiamo come funziona la giustizia civile in Italia, e offre una serie di strade alternative, arbitrati pure con una certa moderazione, perché sappiamo che pure gli arbitrati sono stati un fenomeno patologico, accordi bonari, possibilità per la stessa autorità anticorruzione di dare dei pareri preventivi nel momento in cui la stazione appaltante e l'appaltatore si rivolgono all'autorità per dare giudizio. Ecco, quindi insomma, diciamo, strade alternative al ricorso giudiziale che dovrebbero consentire di allentare un pochino anche questo aspetto. Ti ringrazio, grazie a Giorgio Santilli del Sole 24 Ore. Ovviamente molti dettagli li troverete proprio sul Sole 24 Ore di domani, anche su questo codice appalti. Il Sole 24 Ore ne ha scritto molto anche nei mesi scorsi. Un grazie ad Andrea Roccabella in regia, Barbara Bianchi in redazione, un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci si sente domani alle 13 con Effetto Giorno, poi alle 17 torna Sebastiano Barisoni con Focus Economia. Radio 24, la passione si sente.